sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. I diari di Voi siete qui, di Matteo Caccia. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Dopo 40 giorni andai in convalescenza per 3 mesi. La mia malattia di prigioniero rimpatriato era per deperimento organico, per il gran soffrire la fame. Arrivai a casa. Era notte. Suonava l'Ave Maria della Sera. Ed evidentemente sono molti più di quanto si immagini i figli che chiedono ai padri di scrivergli dei piccoli diari o dei grandi diari, dipende da quello che si sceglie di fare, in cui loro raccontino la loro storia, in modo che i figli e poi magari i nipoti e poi magari i figli dei nipoti eccetera eccetera sappiano chi era il loro parente, il loro avo e quindi un pochettino anche chi sono loro. Buongiorno a tutti, questa è I Diari di Voi Siete Qui, è sabato, è l'inizio del pomeriggio di sabato, noi cominciamo il nuovo pomeriggio di Radio 24 raccontando delle storie di diari, sono storie diverse da quelle che chiediamo tutte le settimane a Voi Siete Qui @radio24.it, perché non sono episodi di vita stretti, ma sono proprio pagine di diario che qualcuno ha scritto e che noi raccontiamo tutti i sabati. In questo caso, ad esempio, la storia ci è arrivata da Marcello. Marcello, che non è solo Marcello, in realtà è padre Marcello, è un missionario saveriano, poi gli chiederemo esattamente di cosa si tratta, che ci ha scritto: questo è un diario inedito sulla Prima Guerra Mondiale che mio padre Duilio mi aveva scritto quando io ero al liceo classico, nel seminario regionale di Anagna, Frosinone, diretto dai gesuiti. Lui questo diario se l'è portato dietro per 21 anni, lui dice anche nei 21 anni che ho fatto di vita missionaria in Bangladesh, dal 72 al 93, come una sorta di piccolo tesoro che lui si è tenuto per sentirsi un po' a casa e perché davvero noi siamo le persone che ci hanno generato, i nostri genitori, i nostri avi, e avere un piccolo pezzo di storia loro vuol dire anche conoscere un piccolo pezzo di storia nostra. È la storia di Duilio che ci ha mandato suo figlio Marcello. Non potevo più andare avanti così e marcai visita, io e altri 5 compagni. Ci fecero togliere la camicia e i medici ci videro passare davanti come ombre. Eravamo sfiniti e non avevamo la forza nemmeno di levarci la faccia. Mi fecero invalido e mi misero in una baracca a parte, in attesa di partire per il campo di concentramento di Mauthausen. Infine arrivò il giorno della partenza per Mauthausen, il concentramento grande. Da lì, per la mediazione del Papa, venivano rimpatriati gli invalidi di guerra. Ogni giovedì, infatti, partiva per l'Italia un treno di prigionieri invalidi, ma si dovevano fare altre visite di controllo. Andai dunque per la visita e trovai un tenente medico italiano. Ricordo, ero solo. Mi visita bene, ascolta, batte e poi mi dice: tu sei perfettamente sano, non puoi essere rimpatriato. Alle parole del medico mi misi a piangere. Lui era buono, gli feci compassione e mi disse: per me io ti faccio invalido, però poi devi passare un'altra visita che è tanto difficile, con una commissione formata da 3 medici austriaci e un maggiore. Devi saperti regolare nel mangiare, mi disse. Lo salutai con tante grazie e gli baciai la mano. Alla fine, io non so come, ma fui scelto. Senza farmi visita, mi fecero invalido. Era il venerdì e perciò il giovedì seguente ero assegnato per venire rimpatriato in Italia. Che contentezza! E arriva il giovedì e finalmente parte il treno. Durante tutta la traversata della Svizzera, a ogni fermata, quella buona gente svizzera ci dava confetti e caramelle. A Chiasso siamo trasferiti su un treno italiano di prima e seconda classe ed entriamo in Italia. Che paradiso, che gioia. Arrivati a Roma, al Forte Tiburtina, siamo rimasti 40 giorni per passare la visita collegiale. Secondo le malattie c'erano reparti diversi. Dopo 40 giorni andai in convalescenza per 3 mesi. La mia malattia di prigioniere rimpatriato era per deperimento organico, per il gran soffrire la fame. Ricordo ancora, arrivai a casa, era notte. Suonava l'Ave Maria della Sera. In paese era pieno di soldati, anche in casa di mio padre. Quando sto per entrare nel cortile vedo un soldato e lo chiamo. Era mio cugino Antonio che partiva per il fronte. Immaginate la scena. Lui si mette a gridare: è arrivato Duilio! Non dico la consolazione nel trovarmi a casa, abbracciato dai miei genitori e fratelli. E poi dopo 2 mesi che ero a casa, una sera sul tardi sentiamo le campane suonare a festa. Avevano firmato l'armistizio di pace. Figuriamoci che contentezza. È finita la guerra. Ecco, così, caro figlio, ho finito di dirti un po' di quello che ho passato nella mia vita. Certo, se mi dicessero di rifarla di nuovo. Piuttosto guardo l'avvenire e spero nella bontà del Signore, che mi faccia chiudere gli occhi nel suo amore e nella sua misericordia. Duilio Storgato, Santa Lucia Mentana, Roma, 28 novembre 1961. It's been a long time since I've seen you smile, and I praticamente succede molto più di frequente di quanto immaginassi, l'abbiamo capito grazie ai diari di Voi Siete Qui. Un figlio che chiede al babbo o un nipote che chiede al nonno tramite il papà: mi scrivi quello che ti è successo nella tua vita, così non lo dimenticherò mai. E così succede per Duilio e per Marcello. Pronto Marcello, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Ma benissimo, grazie. Senti, ma Marcello va bene o devo chiamarti padre Marcello? Ma sono Marcello, sì, okay. Va bene. Però mi racconti, Marcello, esattamente perché sei padre, qual è la tua attività, qual è la tua vita più che la tua attività? Ma io sono un missionario sacerdote saveriano e quindi mi dedico all'evangelizzazione, alla predicazione del Vangelo tra i non cristiani in modo particolare, e ho vissuto 21 anni in Bangladesh, in Asia, e adesso da oltre 20 anni sono a Brescia e mi occupo di diffondere un po' la missione tra il pubblico, ecco, attraverso in modo particolare. Tra i lettori, insomma. Sì. Okay. No, mi piace che lo chiami pubblico, nel senso che sono le persone, immagino siano i fedeli che leggono le vostre riviste, più o meno, giusto? Sì, okay. Abbiamo 3 riviste qui a Brescia che pubblichiamo, di cui anche Missionari Saveriani, che va in quasi 60.000 famiglie. Padre Marcello, mi racconti com'è stato stare 21 anni in Bangladesh? È stato il desiderio della mia vita, la chiamata di Dio, ed è stato difficile, certo, perché vivere in Bangladesh non è come vivere in Italia, per carità, però insomma era quello che volevi fare. Quindi dove... stare in mezzo alla popolazione più povera, contadina. E dove stavi esattamente in Bangladesh? Dov'era la missione? La missione era al centro ovest, vicino al Bengala indiano, proprio lì dove il Bangladesh è stato dichiarato indipendente dal Pakistan. E poi questa era una missione rurale, quindi mi sono dedicato un po' non solo al Vangelo, ma anche all'agricoltura, con cooperative agricole, pozzi, canali di irrigazione. Certo, insomma, una forma di miglioramento dello stile di vita delle persone che abitano. Ma quindi, scusami, se pensi che siamo stati i primi a coltivare il grano nel 1972-73, e adesso sono centinaia di milioni di ettari, di coltivati. A quel punto, Marcello, immagino che tu abbia imparato la lingua, perlomeno sì, in 20 anni. Il primo anno in Bangladesh nel 72 è stato solo per imparare la lingua e la cultura, quindi mi ci sono messo sotto con tutte la volontà. È una lingua un po' difficilina, ma anche bella. Certo. Poi la gente è molto intuitiva, molto collaborante, quindi è stato bello, ecco, è la lingua di Tagore, la lingua, le grandi letterati asiatici, soprattutto indiani. Ecco, certo, quindi... certo, insomma, quindi ha una sua aura, immagino, molto molto alta. Marcello, veniamo invece alla storia che ci hai mandato e per la quale ti ringraziamo, al diario del tuo babbo Duilio. Ci racconti com'è avvenuto che lui ha deciso di scrivere? Gliel'hai chiesto tu o lui ha pensato bene di farlo perché per futura memoria? No, l'ho chiesto io perché appunto mi trovavo a studiare il liceo ad Anagni e i professori chiedevano temi o di parlare comunque della prima guerra e tutti avevano tante cose da dire e io niente, perché sapevo che papà aveva partecipato alla prima guerra, ma mai fatto un cenno in casa nelle nostre conversazioni. Allora gli ho scritto appunto: senti un po', dico, ma come mai non ci parli mai della guerra che hai fatto? C'è qualcosa di cui vergognarsi? Oppure improvvisamente, insomma, hai aperto una porta dopo questa gran lettera con questi fogli scritti. Tra l'altro papà aveva fatto solo la terza elementare, ma 19 fogli scritti. Ce li hai ancora questi fogli? Li tieni da qualche parte? Eh sì, ce li ho come una reliquia preziosa di papà, come anche altri scritti, le sue lettere, le lettere di mamma, di mio fratello che vive in Argentina. Insomma, sono quelle cose del cuore che me ne, certo, sono che uno si porta dietro e poi dovunque sono andato per sentirsi un po' a casa. E poi ti devo salutare, Marcello, però c'è un passaggio che mi ha veramente colpito, ed è quando lui arriva a casa di notte e suona l'Ave Maria e ci sono i soldati e incontra questo soldato che è suo cugino, che sta per partire per il fronte mentre lui sta tornando a casa. Sappiamo che fine ha fatto quel cugino? Quel cugino è tornato perché poi dopo ormai stavamo alla fine. Certo, insomma, mancava poco, quindi. Mi ero preso a cuore la causa del cugino perché mi spiaceva che lui fosse tornato e mi vedevo il cugino partire, quindi scusami, ma avevo questa curiosità. Marcello, io ti ringrazio ancora davvero per la chiacchierata amabile e per la storia del tuo babbo. In bocca al lupo, ciao, per tutta la tua attività. Grazie. A presto. Ciao Marcello, grazie mille. I diari di Voi Siete Qui, in collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. E siccome stiamo lentamente avvicinandoci al Natale, non so se ve ne siete accorti, non so se guardandovi intorno avete avuto la sensazione che ci stiamo avvicinando al Natale, noi abbiamo chiesto all'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, con il quale facciamo questo programma e che ringraziamo sempre per tutto quello che ci manda, abbiamo deciso di fare una sorta di serie di tappe di avvicinamento e quindi oggi cominciamo raccontandovi un diario che nella fattispecie è firmato da una signora che si chiama Ondina Mori, che parla di un periodo natalizio, è ambientato durante il periodo natalizio. In queste righe che leggeremo a breve di Ondina ci sono diverse cose. C'è il Natale, c'è la preparazione dell'albero, c'è il Natale vissuto da bambina e poi vissuto da adulta e da mamma. C'è però una cosa particolare, c'è la sensazione proprio legata al Natale e evidentemente alla fine del Natale, della caducità delle cose che finiscono, ed è una cosa che parte spesso da bambini, no? Cioè, credo non ci sia un momento più triste nell'anno di un bambino del 6 di gennaio, quando non solo devi tornare a scuola, ma dopo aver fatto la festa della Befana devi smontare l'albero e il presepe. Io ricordo, credo che uno dei motivi per cui non faccio l'albero sia quello, perché non voglio arrivare al 6 di gennaio e dire vabbè, smontiamo tutto, e quella mezz'ora lì di smontaggio, metti la roba in cantina, una malinconia infinita. Ecco, Ondina ci la racconta ci racconta anche di come ogni tanto gli adulti ovviamente fanno delle cose come tutte le cose che fanno, le tante cose che fanno davanti ai bambini, e non si rendono conto di alcuni dettagli. Nella fattispecie, ascoltatela con attenzione, a un certo punto c'è la descrizione di una cosa che la mamma fa nel momento in cui lei fa un piccolo danno, rompe una palina di Natale, che è una cosa che lei rimane di fatto dentro per tutta la vita, al punto che lo racconta in questo diario. Lei si chiama Ondina Mori. Quando finalmente, qualche tempo dopo, ho avuto una casa, la mia prima casa, a Livorno, avevo quasi 10 anni. Rimasi delusa quando mi portarono a vedere la prima volta e mia madre se ne accorse, facendomi sentire in imbarazzo, scoperta in qualcosa di brutto che volevo mascherare. Forse avevo sognato troppo dietro ai finestrini dei treni in corsa. Comunque presto mi adattai e tutto finalmente mi sembrò bello, perché mi apparteneva. Così ho fatto il mio primo Natale a casa mia. Mi hanno comperato un albero, finto, anche questo, perché le ristrettezze non erano certo finite. Tutto per me era l'albero, con le luci e le palle colorate e tutto il resto. Ero felice perché anche il Natale era mio. Ma non c'era più il viaggio ed era meno festa, perché eravamo soli. Così quell'anno ero rimasta sola anche a disfare l'albero, quel maledetto albero che non mancava mai, alla fine, denudandosi così impudicamente, di mostrare quel suo scheletro di scopa. Quel giorno una folata di vento spalancò la finestra socchiusa e abbatté l'albero in via di smontaggio. Si ruppe una enorme palla azzurra, la mia preferita, la più grande che avevo. Mi sentì come se avessi mandato in frantumi il Natale, il mondo intero. Nessuna percezione realistica del valore dell'oggetto e della possibilità di trovarne molti altri simili, se non addirittura uguali. Niente, perduto, per sempre. Come una prima intuizione folgorante della ineluttabilità e irrimediabilità della perdita. Ricordo che scoppiai in un pianto dirotto, così doloroso che ancora sento male dentro, se ci penso. Ricordo la mamma che, stizzita, ma non poi tanto, brontolava sommessamente per la mia disattenzione e spazzava via quei minutissimi frammenti, minimizzando l'accaduto e dicendomi che ne avremmo potuto comprare un'altra senza capire il mio gran piangere. Ho cercato, tanti anni dopo, di fare festa ogni volta che vedevo un bambino a Natale rompere qualche palla di vetro, come se fosse un rituale allegro e benaugurante, quasi a lenire quel vecchio ricordo doloroso rimasto piantato lì nella memoria come una spina. Avrei voluto, quella volta, che mia madre, invece di spazzare, mi prendesse per le braccia e mi guardasse dritta negli occhi con quel suo volto luminoso e mi dicesse della bellezza della vita che sempre ci propone altri Natali. Ecco, forse è per questo che ancora mi porto dentro questa dolorosa consapevolezza del finire delle cose che mi si riaccende ad ogni Natale. Per qualche anno in seguito ho fatto come se il Natale non fosse Natale. Poi, quando è nata la mia prima bambina, ho ricominciato a desiderare di fare festa e vedere rinnovare nei suoi occhi la meraviglia fiduciosa dei miei primi Natali. E così è stato. Marta aveva 4 anni quando è nata la seconda figlia, Laura. Era la fine di ottobre, il Natale era alle porte. Avevo affrontato quella seconda gravidanza con maggiore serenità e sicurezza, dopo l'esperienza bellissima della prima. Avevamo anche qualche possibilità in più, una casa nuova, bella, grande, e mi ero sentita bella e grande anche io. Così quell'anno, era il 1978, preparai il più bell'albero che avessi mai avuto. Un albero vero, ormai si usava così, alto, profumato di resina, fitto e rigoglioso, pieno di meraviglie colorate. Anche Laura, con la sua tutina rossa natalizia, mi sembrò un meraviglioso dono. Una bambola dalla pelle di porcellana, i neri capelli e il tenue sorriso che appena accennava. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas. Se mi avessero detto un giorno racconterai nella stessa puntata due diari o due storie di due persone che si chiamano Duilio e Ondina, avrei detto ma va là dai, un po' così, un po' milanese, un po' Milano, un po' Brianza, ma va là. E invece no, invece sono due storie bellissime, una che raccontava della guerra, della prima guerra mondiale, e una invece che raccontava di un argomento che stiamo vivendo in questi giorni, del Natale visto in questi modi diversi. Se volete continuare a inviare pagine di diario, voi siete qui @radio24.it. Io ringrazio Miriam Lucchetti, ovviamente, che si disfa di lavoro per noi anche il sabato. Di fatto te la sei trovata tra capo e collo, prima non c'era il sabato, sei arrivata Ale anche il sabato. Ringrazio Tiziano Bonini ovviamente e Paolino Corleoni, ringrazio soprattutto loro, Duilio e Ondina, perché le storie e i diari di oggi erano i loro, e anche loro sono due punti rossi su una mappa.